Anch'io sogno qua, sogno qua. Ma oggi la serata sembra bellina, c'è un po' di foschia, però diciamo già sta facendo calduccio, dai, tipo l'estate di San Martino, anche se domani ho visto le previsioni e pare che in serata possa piovere. Spero che piova. Se piove già fa bene, perlomeno, alla terra. E a riempire i bacini anche, se no rimaniamo all'asciutto anche l'inverno. E quello è il problema, infatti. I bacini rimangono vuoti, siamo fregati questa estate. C'è il bacino del Cuga che l'ho visto lì vicino a Uri, mamma mia, sembra il mese di luglio, tutto secco, pochissima acqua, capito? E se non piove è un guaio, perché comunque stanno già facendo restrizioni a Sassari, la stanno razionando ad Alghero, capito? Ed è un guaio, invece se almeno piovesse senza fare danno, però in maniera anche abbondante, ma senza fare nessun danno, capito? Almeno riempi un po' i bacini e finiscono con le restrizioni. Eh beh, quello sì. Ci vuole una bella passata all'acqua, almeno 3-4 giorni, un bel po' di acqua, così stiamo bene in Sardegna, se no guai. Ehi, oiaia, oiaia. E quindi niente, adesso io praticamente qua c'ho la radio e siccome non ha una buona uscita audio ci ho attaccato una cassa esterna, capito? Poi c'ho quello che mi dà più potenza, l'alimentatore e poi c'ho lo strumento di misura, l'SX100 della Diamond, capito? Però mi sa che uno di questi giorni, quando sono libero, scenderò giù e mi sistemo l'altra radio, almeno un pezzo unico, e quella esce già con più watt, capito, e li posso regolare, quindi posso uscire con 4, 5, 8 o di più, capito, e così almeno mi elimino un po' di cavi e cavetti. Eh beh, c'è un grido. Io bisogna che invece domani mi sistemo questo tavolo che è un casino, c'è un sacco di scatole che non ne faccio un cazzo, scatoloni. E ogni tanto già ci vuole un po' di ordine, dai. E per l'appunto, avanti Beck, chi è? Ho capito. Non ho capito niente perché siete in due, uno fischia e poi tu parli. Tu senti te, Carlo? Pio pio, ma incomprensibile, capito. Poi ho capito break break più uno e poi c'era uno che stava fischiando sotto. Io qua non ho sentito niente, cioè si sentiva pio pio quando tu gli hai detto aspetta, parla più forte, no, non ti sento, poi lui un pochettino prima ha parlato, ma incomprensibile. Vediamo un po' se c'è ancora avanti l'amico, sparito. Non si sente più, neanche io l'ho sentito, ho lasciato un po' di bianco per vedere se si faceva sentire nulla. Infatti, aspetta che ho visto una cosa che la recupero, 2 minuti, devo mettere una borsa di ferri, aspetta. Vai tranquillo, tanto sono qua col computer io. Ok, sistemato portatile. Sento la borsa di ferri. Sono come adesso. Domani vediamo un po' se devo fare questo, controllargli questa antenna, voglio almeno ci portatevi già pronti. Oh, yeah. Adesso tra una mezz'ora stavo guardando un messaggio, mi ha detto che passa mia figlia e quindi sono altro po', poi siccome gli hanno regalato un cagnolino bassotto al compleanno, le amiche, e quindi ogni tanto me lo porta, adesso gli ha fatto il vaccino, la prima dose, gli ha messo il microchip, capito? Un sacco di soldi al veterinario, 30 euro per il vaccino, altri 20 per il microchip, capito? Anche tenere i cani costa adesso. Io devo portare il mio, però non adesso. Il 27 quando ritiro vado dal veterinario un attimino e ci porto il cane a tagliargli gli unghie davanti, che ne ha due che sono lunghe, sia una zampa sia nell'altra, e gli voglio far tagliare, gli compro la museruola, perché sono capace che si gira al veterinario. Sì, molte volte lo fanno perché si impauriscono, poverini, e quindi, capito, si girano. Siccome ti dà fastidio quando cammina, capito un po'. Poi a parte quando sale sopra nel letto, a volte si incassa nelle coperte, cose del genere, e tira, capito? A parte quando si appoggia, secondo come si appoggia, ti buca anche il braccio. Lo so, anche quello che ha mia figlia ha le unghiette lunghe perché ancora sta camminando dentro casa, quindi non le consuma. Quello succede quando magari camminano poco e quindi le consumano poco, quindi sono appuntite, graffia, eccetera. Poi questo è piccolino, non ha, mi sa che compie 2 mesi, li ha fatti ieri, questo cagnolino piccolo, una femminuccia, e niente, quindi adesso è in quella fase che mordicchia tutto, capito, e bisogna avere pazienza. Sì, adesso li fa sparire le ciabatte, li fa sparire, eccetera eccetera, poi incomincia a fare la pipì in terra, poi già cambia totalmente, faceva così anche il mio. Non si poteva lasciare nulla in giro, si abbatte quello che trovava, se pigliava, lo musicava. Un giorno mi ha preso la carta d'identità, ma mi ha musicato la carta d'identità, mi ha lasciato solamente la parte della fotografia mia e basta, ho dovuto farmi la carta d'identità nuova. Pensa tu, sì, me l'ha detto mia figlia, dice se come trova pantofole, dice sa zuffa con la pantofola, dice sa rabbia, la prende, la sbatte da una parte all'altra, e ho detto, e poi la morsica te la rovina, e per quello poi mettetela in alto che non ci arriva e così non ne trova, magari si trova qualche altro attento. Poi me l'ha portata, ho il divano in cucina, il divanetto, non è nel soggiornino, e c'è la marca attaccata sul un fianco, si stava attaccando là, allora gli ho messo una scatola così, ho detto non ci fa. E beh, già lo credo, così bisogna fare, quando sono piccoli sono tiriosi, so, figurati. Oh, il mio, la caterità mia, non ci va a trovare la cazzo, e dov'era? Dietro al divano. Mi ha lasciato solo il pezzo della fotografia, io diventando scemo adesso, ho dovuto andare al comune, ma non gli ho portato quel pezzo, e da lì me l'hanno fatta nuova, capito? Non ti rimaneva altro che fare quello. Allora, per carità, ma già ogni tanto qualche susta già l'ha presa, capito? Perché diventano puntigliosi quando sono piccoli. E poi passa, dai, quella fase quando crescono un pochettino, bisogna avere un po' di pazienza, come dicevo prima. Ho visto Gianni ce l'ha, ma così Gianni è grande, lo chiama quando vuole uscire per fare i bisogni, capito? Quando sono grandi, se li educhi bene, insomma, ti avvisano per tutto. Sì, quando sono grandi sì, è tutta un'altra storia. Ma quando sono piccoli, mamma mia. E vabbè, a ognuno il suo. Mia figlia te lo voleva, sempre era fissata con questo cane, e io quando ero con loro sempre gli dicevo lascia perdere che il cane poi ti impegna, che poi non puoi uscire quando vuoi, e lei mi diceva sempre già lo portiamo, siamo in tanti, poi uno, poi l'altro. Io non gliel'ho mai preso, ho detto anche perché in appartamento io sono un po' restio, capito, a prendere il cane che hanno bisogno di muoversi, invece. E comunque lì adesso c'è con la madre, infatti non gli chiedo mai niente io, però la madre, conoscendola, non credo che sia tanto contenta di questo cane. Eh beh, se comincia a mangiare tutto quello che trova, oiaia, già si incazza per forza, si incazza. Tu quando diventa più grande già si calmano un po'. Sì, infatti, adesso è piccolino, quindi non è che puoi pretendere più di tanto, dai, però passerà. Niente, io adesso, ti ripeto, tra un pochettino arriva lei, capito, che mi sto un po' con mia figlia, adesso guardo se ho qualcosa da offrire, perché questi giorni ero riuscito a fare la spesa, ma non mi ricordo cosa ho offrito. E ieri sono andato io con mia famiglia, appena li spesa, al Sidis. Vedo il cavallo, tiene il cavallo. E poi il cappaccio per Simona. E che fine? E riesce a mangiarlo, capito? Sì, sì, sì, è già lo credo. Poi domani andrò di nuovo a portare qualcosa, anche perché ho speso 56 euro ieri in farmacia, hai capito? In medicina, quindi non so neanche quanto mi è rimasto di dentro la carta. Agato 27. Piano piano, sempre annenne, così è. Io lo stesso ne ho di spese tutti i mesi, c'ho un piccolo mutuo, e questo, e paga l'ICU, e paga l'altro, e bollette, benzina, e questo, e c'è sempre giusto giusto. Sì, non parlami delle bollette. Bollette ho speso più della metà della carta. Me l'hanno dato il mese scorso il 24, al 10 mi hanno rimasti 250 euro, mi erano rimasti solo, da 1.300. Insomma, i soldi piano piano entrano, ma uscire si fa velocemente, capito? Escono subito. Sto pagando la Mondetta, sto pagando a rate, capito? Più mi è arrivata un'altra bordata da 600 euro, mi è arrivata e mi sono pagato anche quella a rate. Adesso l'ultima rata di una ce l'ho il mese prossimo, e poi mi è rimasta rata fino al 2027. Dopodiché se la prende il culo dopo il 2027. Poi c'è anche la rata dell'acqua, posso di usare le bottiglie, mi sono comprato il purificatore, capito, d'acqua, mi è costato 6.000 euro, mi è costato, in pratica finisco nel 2027, capito, e così se la bia in culo a voi. No, qua da noi l'acqua la paga l'amministratore per tutto il condominio, noi abbiamo i contatori giù e lui rileva il consumo di ogni famiglia, siccome è un condominio piccolo questo, e quindi poi ce la suddivide in base a come siamo. Praticamente io sto pagando la quota condominiale in base a quello che pagava l'inquilino che c'era prima, che era marito, moglie e una bambina in questo appartamento dove sono io. Io adesso sono solo, ho fatto la fotografia del contatore di quando sono subentrato io, e adesso ho fatto la fotografia proprio nei giorni scorsi che sono sceso giù nel locale dove abbiamo l'autoclave e ci sono tutti i contatori, e ho fatto l'altra foto. Siccome l'amministratore ci stava mandando sempre l'avviso di pagamento, capito, l'ho pagato tramite bonifico, e ogni, praticamente 6 volte l'anno chiede 2 quote per volta, quindi fai gennaio, febbraio, e quindi fai un pagamento, marzo, aprile, e così via, anziché fare 12 versamenti ne fai 6, e quello va bene, però se tu non mi metti l'avviso con l'IBAN eccetera, io poi me ne dimentico, capito? Quindi adesso io avevo pagato, mi ricordo, agosto e settembre, ottobre e novembre non ho visto niente, va bene che novembre ancora ci siamo dentro, capito? Quindi non so perché, o deve chiudere il bilancio e quindi non ho mandato niente, però ti ripeto, la quota acqua la paghiamo là, però io gliela devo fare quantificare la mia, perché io non è giusto che paghi come dire, con un consumo superiore quando io sono solo, e invece tu l'avevi calcolato per il mio appartamento per 3 persone, quindi tu vieni qua, ti fai la lettura e mi dici effettivamente quello che io sto consumando pago, io non voglio pagare di più, hai capito? Sì, fa finta nei bisimali dovrebbe essere. Io pago 50 ogni mese, capito? Quindi figurati, però gliele do, a volte gliele do 3 mesi assieme, hai capito? 150 euro. E quindi faccio prima, capito? Così sono più tranquillo. Se ogni volta devo stare sempre andare lì, ogni mese, da lì 50 euro, eccetera, eccetera, ce ne do 3 assieme, il coso, così come lo segno, capito? Esatto, io pago un po' di più di condominio di quello che hai detto tu, però dovrei pagare almeno, secondo me, almeno 20 euro di meno, capito? Quindi se io vado a pagare 60-70 euro mi sta bene, però ne sto pagando 80-90 euro. E così un bel. Stai pagando parecchio. Io pago 50, figurati. Sì, praticamente vengono a fare la pulizia nelle scale 2 volte a settimana, non è che facciano tutto questo granché. Dopodiché c'è il consumo dell'ascensore, della elettricità delle scale, illuminazione scale, eccetera. E poi c'è il compenso che si prende l'amministratore, capito, che non fa niente, perché questo è un condominio abbastanza nuovo, di recente costruzione, per cui non è che dobbiamo fare lavori, eccetera. Lui non fa assolutamente niente, incassa le quote, paga le bollette e se ne appunti, capito? E quindi adesso io lo sveglierò un pochettino a dirgli, senta, io sono subentrato con questa lettura, attualmente ho questa lettura, quindi voglio sapere com'è che sto pagando io il consumo dell'acqua, perché io voglio sapere che cosa pago io per il consumo dell'acqua, perché io non posso pagare di più di quello che pagavo all'altro, che in casa erano in 2 o in 3, capito? Io sono solo, questo è il mio consumo e voglio pagare per questo. La mia quota condominiale dovrebbe essere più bassa di almeno 20 euro. Quindi, poi se c'è un consumo di più degli altri, lei prenda le letture di tutti e così la può vivere in maniera equa. Ma le letture le deve aggiornare, capito? Sì, io ci sono, Daniel. E infatti, deve fare così, per forza così. Avanti, Daniel. Io non lo sento. Prova, lo senti bene, se non lo senti. Carlo, Daniele non ti sente più, ha detto. Tu lo senti, Carlo? Ah, Daniele. Sì, l'ho sentito basso basso, però già lo sento. Attacca per vedere un po', così ti sente anche lui. Allora, Carlo, a sollevarsi un po', ti do il segnale, ho detto, così almeno lo senti anche tu. Carlo? Passaggio. Prova a parlare, prova Carlo. Boh, io adesso non lo sento più. E non ha parlato. Avanti, Daniel. Allora, mi senti? Sì che ti sento, basso basso, ma già ti sento, Daniele. Ah, tu già ti senti, basso basso, ma già ti sente, Daniele. Anche io lo sento basso. Sì, vabbè, provate che vi sentiate. Entrambi. Va bene, Antonè, io adesso chiudo che sta per arrivare mia figlia, mi ha mandato un messaggio, tanto spiega 5 minuti che è qua vicino. Ci sentiamo più tardi, casomai, tanto sarà lì giusto una mezz'oretta, un'oretta massimo. Lascio acceso, poi casomai rientro, dai, un attimo di bianco per me. Ciao Daniele, ci sentiamo, speriamo in condizioni migliori. Ciao Antonè, a più tardi, casomai. Ehi, va bene Carlo, già ci stiamo più tardi allora, ok. Avanti Daniele. Ciao Carlo. Ehi, ti ho salutato. Provato hai a vedere se a mettere le frequenze, Daniele. Non lo so dimenticare. cosa detta e cosa detta. Oh, yeah. C'hai il metto sezione anche la scatola qua di quell'apparecchio là. Te l'ho messo da parte, così almeno se buscamo qualcuno che lega il coso in inglese, almeno vediamo poi di chiedere a quell'amico mio, così almeno ti fa la programmazione. Parliamo su portatile. Va bene, aspetta con il PMR, lo prendo e così l'aggancio, lo tiro qua, vediamo un po'. Power on, 7. Ok. Sento, questo è il mio modesto giudizio, è un po' barattolosa, Tony. Ma io sono usato con lo sciure, mi famoso. E tu mi hai domandato una cosa e io ti ho risposto in tutta sincerità. La sento a mio orecchio, ti sto ascoltando con la cassa esterna. La sento un po' barattolosa, tutto qua. Ecco, che grazie, abbiamo dato una buonissima, perfetta. Adesso faccio mezzo manetta a vedere cosa succede. Innesca per caso? Tu sai, tranquillo, ora caro io. Guarda, l'ultimo gli ultimi secondi questo passaggio che hai fatto appena migliorato, non so se hai toccato qualcosa, ma mi è sembrato di avvertire un piccolo miglioramento. Non so se ti sei avvicinato o allontanato al microfono, No, ho toccato solo il potenziometro. Quindi lascio così. No, adesso c'è un leggero innesco, forse hai tirato su. Non so se hai tirato su il tono, il volume, cioè, ti stai portando appresso l'inizio di un innesco. Quindi se lascio così va bene allora. Di lusso, adesso è meglio, adesso c'è stato un netto miglioramento, dai, perlomeno ti ripeto, a parte mia adesso ti ascolto meglio. Ok, va bene bene, grazie. Ok. Poi ha provato con Salvatore, quello sempre che c'ho proprio la stazione di Salvatrice. Niente, quella stagno. Acqua da raffreddarsi e metto una scatola, ammazza, gliene scenda che ci vuole troppo tempo. Vabbè. La metti fuori dalla finestra, come faccio io, il saldatore, quando finiscono di usare lo metto fuori dalla finestra. Basta non dimenticarsi che se si faceva, guai. Beh, no, mai c'ho anche la veranda, se vedo fuori la finestra c'è la veranda, qui non può mai piovere, capito? Oi, oi, oi, beh, non c'ho altro nessuno, era si intende, voi, sono tutto la baracchina accesa, sono 10. Pensavo che era Gianni, invece no. Ehi, ascolta, ma il microfono che stai usando è un palmare o è da tavolo? Da tavolo. Ah, cosa mi hai detto? Uno Shure? K, è quello che è il pomello rosso, quello grigio che la testa si sale su, quello originale. Forse, boh, forse l'avevo visto da qualche parte. Non mi ricordo chi è che me l'ha... Mi aveva mandato qualche foto di microfoni a tavolo vintage, no, è roba vintage comunque. Ho capito. Ah, l'importante è che funzioni, ma cosa va alla batteria per essere alimentato? Quella quadrata 9 volts. Ah, ok, ho capito. Ah, forse sai che c'era uno Shure da tavolo, no? Che adesso vabbè, sono da un po' che non lo sento. Coso, va. Franco Binario, mi pare che avesse anche lui uno Shure, o sbaglio? Ma mi sa che sì, anche lui c'è uno Shure. Adesso è da parecchio che non lo sento, vabbè, non stavo entrando neanche io da un po' per tutta una serie di motivi, poi vabbè, ho risistemato l'antenna che era da sistemare perché mi si era bigiato il puntale, il radiale di punta e si era tutto quanto bigiato e gli ho fatto la crocchia e ho detto bah, la rimetto su e poi rispolveriamo la radio, vediamo un po' se funziona tutto, ma sembra che vada tutto bene, dai. No, già stanno bene, perfetto, guarda, tranquillo. Niente, grinta, golla, è un casino, guarda, ti fa questi fini, ga, ma non finire mai. È come la mozzarella. lo fa, anche a me è capitato, l'ultima volta stavo bloccando dei cavi all'interno di una scatoletta e più ne tiri di fili e più ne esci. Allora, pare e fili e fondi, ma non voglio dire nulla. Oi, oi, e tu come mi ascolti, Tore? Torino, cosa Tore? Perdona, vabbè, con la T inizia. Oi. Come mi ascolti? Perfetto, una radio 5 squillante, bella, chiara, più chiara di così non ce n'è. Bene meda, dai, faccio un altro paio di passaggi e poi vado a pulire la lettiera del gatto, oh, yeah. cosa mi tocca. Guarda, non mi meraviglio perché io ho due cuccioli, cazzo, vabbè, dico cuccioli che so, di stata piccolina, capito? E c'ho un meticcio di Jack Russell e un meticcio di Basotto, quindi niente, ce l'ho quando avevo 2 mesi, erano 6 anni, ogni tanto devo pulire anch'io la ciotola, mangiare, l'acqua, tutto. Oia, mi tocca. Vabbè, dai, non c'è problema, lo si fa con piacere, dai. Oi. Ogni 5 minuti passa un'ambulanza ai noghi, baccali, dai. Guarda che lo so, che c'è metà mia sorella in quella zona, mi. Guarda, allucinante. Allucinante, veramente. Ormai, boh, ci sono momenti dove ne passano 2 o 3 appresso. E poi, l'antenna che c'hai è molto molto riparata al palazzo, quindi stai bene così. Cosa hai detto l'antenna? L'antenna tua, è molto riparata, capito? Ma, già lo sai dove è la mia antenna, sì, io sono, c'ho tutto libero intorno, dai. Già lo so dove, ma c'è una bella zona, dai, tranquillo. Quindi arriva una meraviglia come segnale, come radio. Non ho avuto difficoltà ad ascoltarti. No, vabbè, cioè, nel senso, attorno a me poi la parte, la parte delle ferrovie qua e vedo tutto il golfo della Sinara, qui c'ho tutto libero, vabbè, poi vedo dalla Ciabacci, vedo tutto Sassari, quindi non ho problemi di sorta per adesso, dai, già va tutto bene, dai, la radio si comporta bene e niente, dai, non ho tutto qua, oggi proprio, vabbè, oggi è sabato, quindi sicuramente la gente sta dedicando il suo tempo per fare altro, qualcosa magari di più importante che sta alla radio. No, io invece ho da fare molto, invece non sono neanche uscito e non me ne frega niente, capito? Ho acceso senza qualche dunque, anche chiacchierate me la faccio, tanto sto facendo lo stesso, e salta qua e salta là e fai quello, e passa l'aspirapolvere, passa tutto, poi mi devo preparare anche la cena e a voi la cena. Io, spegnete tutti i bacchi. Mia Gianni, mi ciao Gianni. Ciao, io sto pulendo, mi sto ascoltando, ma sto pulendo la casa, dai. Sto finendo di pulire. Dopo rientra allora. Non lo so, no, perché poi mi faccio una doccia e non lo so, se si fa tardi no. Vabbè, e poi te ne vai alle frische frasche, ho capito, dai. Solo un saluto, là. Ok, d'accordo. Ehi, ciao già, vabbè io un altro paio di passaggi e mollo la radio perché c'ho da fare, dai. Oh, yeah. Che ore sono? 6:20, dai. Oh, yeah. A me il cambio d'ora mi sballa veramente, sono ancora mezzo incentrato. Io adesso sto dormendo di più, boh, chissà perché. E mi sveglio sempre verso le 9:30, 10:15. No, no, a me vabbè, anche il cambio di stagione, il cambio dell'ora mi rincoglionisce. Rimango quelle 2-3 settimane che sono mezzo rincoglionito, poi mi adeguo, vabbè, non è stato anche scientificamente provato, insomma, che il cambio dell'ora e il cambio di stagione fanno questi scherzetti, dai. Vabbè, Tony è sparito. Continuate che vi ascolto. Ehi, Tony. Ehi, ce l'ho fatta salvare anche quel pezzo, dai. Adesso devo fare la prova tecnica se accende. Andate, ok, Moco Rix, già. D'accordo, non c'è problema. Quando vuoi entrare, entra. Se non vuoi entrare, vai alle frische frasche. Tony, se si può dire, che apparato stai usando? Se lo puoi dire. Certo, io non ho problemi, capito. C'ho una Fayette che si chiama 2400 FM. Ah, sempre roba vintage, no? sempre, già va bene. 278 canali, già va bene. AMFM SSB. Ho capito. Ma io c'ho il clone del... come ti chiama adesso, non mi ricordo se è il Super Galaxy, non è arrivato molto, è il Super Jopix 2000, che praticamente dovrebbe essere il clone del Galaxy, veicolare, il clone del Galaxy, non mi ha messo un nome, vabbè, forse Doppio Rumo lo conosce meglio. No, c'è il Samurai. Già sai che c'è Baracchini, praticamente gli cambiano l'etichetta e poi sono quasi tutti quelli stessi. C'è il frequenzimetro, giusto? Affermativo. E cromato? Cromato, argentato, color Mercedes, con lo smitter sulla sinistra, il frequenzimetro al centro e il display dei canali sulla destra. Sì, l'ho avuto anch'io. Nel 86 l'ho avuto, Samurai. Bel baracchino. Beh, già va, dai. Funziona bene, 7 watt da strumento, quindi va benissimo. Ecco. Niente, sto facendo la prova adesso. Tornando a accendere, non fa contatto questo maledetto che... La mettiamo acceso. Non va bene con la colla, no? È casino, perché mi si staccava, ho dovuto attaccare, mettere cacciavite, giù mai si attacca un cacciavite, non esci più, che casino. Oh, yeah. Dai Tony, vabbè, io ti lascio che devo andare a fare, cambiare la lettiera e a fare altro, dai, sennò, cazzo, con la gara che innaggio. Va bene, dai, grazie per la piccola chiacchierata e magari, provo a accendere dopo se c'è qualcuno, se no ci sentiamo alla prossima, ok? Va bene, non c'è problema, stammi bene, buon con rettangolo, un buon trabacco a QTH, è tutto quello che devi fare, e buona serata. Ci sentiamo e staremo anche all'ascolto, che continuo a armeggiare su questa batteria. Ok, ci sentiamo. Allora, ciao caro, e a tutti gli ascoltoni, ciao ciao. Ok, ciao. Allora, qualcuno sul 10? Pensiamo che andrà 1 o 10? C'è qualcuno sul canale 10? Attenzione canale 10, c'è qualcuno? Attenzione canale 10! Attenzione canale 10, perché? Attenzione canale 10, c'è qualcuno sul 10? Canale 10, attenzione canale 10, c'è qualcuno sul 10? Attenzione canale 10.